Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Fiat Chrysler, l'accordo è sempre più vicino, la casa americana tratta coi sindacati, il nuovo CDA sarà nominato dal governo americano e Lingotto, la borsa ci crede. Vertice di governo per il terremoto, presto anche gli aiuti da Bruxelles, in arrivo 500 milioni di euro. E dopo la polemica ieri puntata riparatrice per anno zero, Michele Santoro mostra le vignette di Vauro e vince la sfida dell'ascolto con il programma di Canale 5 di Maria De Filippi. Ancora una violenza aggredita nei giardini di Via Palestra a Milano, una donna di 30 anni denuncia, mi hanno aggredita alle 8 di mattina, nessuno ha visto nulla. Davano ordini dal carcere di Palermo, i carabinieri notificano gli avvisi a 5 esponenti delle clan mafioso Madonia già in manette che continuavano a comandare. Cuba, Stati Uniti verso il disgelo, inizia oggi nello stato di Trinidad e Tobago il quinto vertice delle Americhe, il presidente degli Stati Uniti Obama incontra i colleghi del continente, al centro l'apertura di Washington verso il regime di Castro. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Dunque, Fiat sembra sempre più vicina all'americana Chrysler, la casa automobilistica statunitense avrebbe infatti raggiunto un accordo coi sindacati che spianerebbe la strada al matrimonio. E questo è un nuovo inizio, che l'intesa fra Fiat e Chrysler sia sempre più vicina. Ci sono anche le dichiarazioni incoraggianti dell'amministratore delegato di Chrysler, Bob Nardelli. Allora, andiamo in America in diretta con Luciano Clerico. Buongiorno Luciano. Buongiorno a voi. Allora, Chrysler, intesa con Fiat più vicina, era stato lo stesso presidente Obama a dire che sarebbe stato un matrimonio auspicabile, ci siamo? Beh, è ancora presto per dirlo, diciamo che ci sono segnali positivi. La sintesi migliore l'ha fatta il presidente Montezemolo questa mattina quando ha detto che bisogna lasciar lavorare Marchionne perché... per arrivare a un accordo c'è tempo fino alla fine del mese. Marchionne sta lavorando con riserbo, lascia pochissime interviste, ne ha rilasciata solo una ad un giornale canadese, al Toronto Star, per dire sostanzialmente che la Fiat è interessata a concludere l'accordo e sta lavorando con la task force di Obama e con il vertice di Chrysler a certe condizioni. Una delle condizioni è che i sindacati potrebbero entrare nell'azionariato della nuova compagnia, l'altra condizione è che i consiglieri del nuovo consiglio di amministrazione siano indipendenti, ma l'amministratore delegato e il presidente saranno espressi o dal governo o dalla Fiat stessa e non da Chrysler. L'ultima novità sul fronte Fiat di oggi è una notizia tutta da verificare, pubblicata dal Wall Street Journal stamani, in cui dice che secondo la quale uno dei consiglieri della task force di Obama, un certo Steven Rattner, sarebbe coinvolto in un'inchiesta avviata dal procuratore generale di New York, Andrew Cuomo, che vuole capire se la società di cui Rattner fa parte, che si chiama Quadrangle Group, abbia o meno pagato tangenti per accedere a un fondo pensioni. Questo è tutto da verificare, tutto sommato è una notizia laterale che non dovrebbe inficiare le trattative in corso, però è l'ultima novità al riguardo. Grazie Luciano Clerico da Washington, però sicuramente è una tegola se sarà confermata che cade sulla strada dell'amministrazione del nuovo presidente americano Obama. Però torniamo alla vicenda Fiat e salutiamo anche Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buongiorno. Quali vantaggi porterebbe questa alleanza alla Fiat? Beh, grandi vantaggi, innanzitutto perché acquisisce una rete di vendita negli Stati Uniti che è molto forte, in cui può veicolare i propri prodotti, e poi è un passo avanti verso quel raggiungimento di dimensioni produttive molto più consistenti di quelle attuali che saranno necessarie per sopravvivere nei prossimi anni, secondo l'analisi fatta dallo stesso Marchionne qualche mese fa, e quindi direi i risultati sono certamente importanti. C'è anche un risultato di immagine, importante in Europa e negli Stati Uniti, perché la Fiat, che diventa la salvatrice di una grande casa americana, sia pure la più piccola, ha un riflesso indubbiamente positivo sull'immagine sull'immagine italiana, ma sull'immagine dell'auto italiana, che rientra in qualche modo, ma direi dalla porta principale, nel made in Italy buono, nel made in Italy che sostiene, che esempio addirittura al mondo. Grazie anche a Gianprimo Quagliano e a crederci. Intanto è prima di tutto la borsa, il titolo Fiat sta guadagnando ancora in questi minuti attorno al 6,30%, scommettendo proprio sull'affare Chrysler. Dicevamo, Fiat simbolo, da simbolo in qualche modo dell'inefficienza italiana qualche anno fa, a modello davvero per il mondo intero. Sentiamo. C'è un problema forse col servizio, eccolo. Sentiamo. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti, meravigliosa creatura. Adesso è meravigliosa, sinuosa, perfino sexy. Poi low cost, anzi risparmiosa, in perfetta sintonia coi tempi di un presidente americano che ha dichiarato guerra agli sprechi energetici e che, in gioventù, dice la leggenda, guidava una mitologica Ritmo. Vieni avanti, vecchia Fiat, e goditi la tua rivincita. 5 anni fa, sull'orlo del baratro, eri un prodotto residuale del Novecento, deriso dai teenager e dai vignettisti come un goffo incidente stilistico. L'immagine simbolo della disfatta era la Duna, auto bulgara associata ai dopolavori fantoziani o alle vacanze di imbianchini in canotta. Eri vecchia, ma proprio vecchia, come un abito tagliato male che resta nell'armadio. Oggi, comunque vada, chiamata al salvataggio di una delle tre sorelle di Detroit, il marchio Fiat brilla come la stella polare della riconversione della funzionalità. Piccolo è tornato bello, economico, ma anche pieno di fascino e di appeal. La 500 fa tendenza, l'appunto bassi consumi. La Panda conquista l'Europa mettendo d'accordo nel gusto genitori e figli, mariti e mogli, studenti e insegnanti. Insomma, in qualche cosa siamo all'avanguardia e in tempi di crisi globale è una notizia. Meravigliosa creatura. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina, riunione di governo oggi per il vertice, per il terremoto d'Abruzzo. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Ore di lavoro per i ministri interessati al prossimo varo degli interventi in favore dell'Aquila e della sua provincia. La tabella di marcia è stata anticipata dal Presidente del Consiglio Berlusconi. Stima dei danni, inventario delle esigenze, pianificazione degli interventi e solo a quel punto si potrà definire il budget necessario per la ricostruzione. Il tutto dovrebbe avvenire in pochi giorni per arrivare a varare il previsto decreto giovedì prossimo in un Consiglio dei Ministri che si terrà proprio all'Aquila. Questo pomeriggio alle 17 Berlusconi incontrerà Tremonti, Sacconi, Scajola, Fitte ed altri ministri per mettere nero su bianco le linee di intervento, due i fronti sui quali l'esecutivo sta lavorando: da una parte l'emergenza di questi primi giorni e per la quale c'è a disposizione il fondo imprevisti del Ministero dell'Economia da cui sono stati prelevati i primi 100 milioni, poi c'è il capitolo della ricostruzione con diverse ipotesi di fonti alle quali attingere: una tantum 5 per 1000, fondo da 9 miliardi creato di recente presso la Presidenza del Consiglio. E da Roma è tutto, linea allo studio. E si parla di fondi, si muove anche l'Unione Europea, potrebbero arrivare 500 milioni di euro da Bruxelles, lo ha detto oggi il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, che ha presieduto all'Aquila una riunione organizzativa. E poi più avanti sentiremo anche tutte le altre notizie dall'Abruzzo. Intanto ieri sera è andata in onda la puntata riparatrice di Anno Zero senza Vauro e per la RAI è stato record di ascolti. Vorrei soprattutto salutare i lettori del giornale. Ma come? Il vostro quotidiano ha fatto delle memorabili battaglie per la libertà di stampa. Comunque sia andata, è stato un successo, se non di critica, se non di politica, se non di riparazione rispetto alla puntata precedente, quantomeno di ascolti. Perché Anno Zero, andato in onda ieri, ha fatto registrare lo share più alto della serata, con oltre il 20%, battendo anche Maria De Filippi. Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica. Con l'attesa che c'era ieri, non tanto per quello che poi è effettivamente successo, quanto per il fatto di stare davanti al video per vedere se magari succedeva ancora qualcosa di molto più forte, che poi alla fine non è fondamentalmente successo. Puntata riparatrice, appunto, dopo le polemiche della scorsa settimana, con giudizi tranchant da parte di una discreta fetta del mondo politico e sospensione del vignettista Vauro, tornato in onda non fisicamente ma con le sue vignette. Puntata riparatrice che tanto riparatrice non è stata. Insieme con Travaglio hanno scelto l'arma dell'ironia e del sarcasmo, che a quanto pare, a giudicare dal nervosismo di molte reazioni del centrodestra, di esponenti del centrodestra, stamattina ha decisamente colto nel segno. E dunque non sarà contenta la politica, forse Santoro sarà tornato ad offendere qualcuno, ma di certo, seppur di servizio pubblico si tratta, la Sipra, la concessionaria pubblicitaria della RAI, di lui non può proprio lamentarsi. Un nostro collega, Vauro, uno che fa satira, si è macchiato di colpe vergognose. E siccome io voglio dimostrare che non tutti quelli che fanno satira politica sono così irresponsabili, io ti chiedo, Michele, di poterlo processare qui davanti a tutti, di poterlo umiliare. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso la cronaca che ci porta a Milano, dove purtroppo è avvenuto un altro grave episodio, una violenza su una donna. Giovanni Capuano. Buongiorno, non sono ancora del tutto chiarite le incertezze che gli investigatori conservano sul racconto della donna di 30 anni che ha denunciato di essere stata aggredita e violentata ieri mattina all'interno dei centralissimi giardini di Porta Venezia a Milano. Un racconto, quello della ragazza, che presenta ancora alcuni lati oscuri al vaglio dei carabinieri proprio in queste ore. La violenza sarebbe avvenuta ieri mattina intorno alle 8, non ci sono testimoni. La donna ha spiegato che stava attraversando i giardini per compiere alcune commissioni, di essere stata aggredita sotto la pioggia alle spalle da un uomo che l'ha ferita al petto con un oggetto tagliente, quindi è svenuta per il dolore, per la paura, e quando si è ripresa si è accorta di avere numerosi tagli su braccia e pancia e di avere i pantaloni abbassati, ha chiesto soccorso ed è stata portata al centro specializzato della clinica Mangiagalli. Manca ancora il referto medico che certifichi la violenza sessuale, la conferma che i carabinieri attendono, non avendo avuto sin qui alcun riscontro alla denuncia e non avendo ottenuto dalla giovane, che è tuttora in stato di forte shock, alcuna indicazione sull'aggressore. Non sono fortunatamente frequenti gli episodi di violenze nei giardini di Porta Venezia, ripeto, siamo in pieno centro a Milano, si ricorda un episodio di 14 anni fa, allora la vittima era però riuscita a sfuggire ai suoi aggressori. È tutto in linea allo studio. Grazie. Da Milano a Palermo, dove i carabinieri hanno notificato in carcere 5 ordini di custodia cautelare a componenti del clan mafioso dei Madonia, che dalle loro celle continuavano a comandare. Nonostante il rigido regime carcerario previsto dal 41 bis, dai penitenziari gli ordini impartiti dai boss detenuti arrivavano ugualmente ai picciotti a Palermo. Sono stati i carabinieri del Rossa a scoprire, a conclusione di un'inchiesta denominata Rebus, il codice criptico utilizzato per far arrivare a destinazione le disposizioni. Sono 5 le ordinanze di custodia cautelare notificate in carcere ai boss Antonino, Giuseppe, Salvatore Madonia, a Nicolo Di Trapani e Giuseppe Guastella, che scontano già condanne per gravi omicidi. Secondo i carabinieri, gli ordini dei boss detenuti sarebbero stati veicolati tramite Aldo Madonia e Maria Angela Di Trapani, la moglie di Salvatore Madonia. Sarebbero stati loro a far giungere a Palermo le disposizioni impartite dai congiunti detenuti, nonché il punto di riferimento dei diversi reggenti succedutisi nella direzione operativa del mandamento mafioso. L'operazione antimafia Rebus ha permesso inoltre di ricostruire il movente dell'omicidio del boss Giovanni Bonanno, vittima della Lupara Bianca nel gennaio del 2006, perché avrebbe fatto una spartizione ritenuta iniqua dei proventi illeciti della cosca. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Le 13:17, GR24 Extra Large. E nella prima parte abbiamo parlato dell'accordo che sembra sempre più vicino tra la Fiat e l'americana Chrysler. La casa statunitense sta trattando con i sindacati un via libera che spianerebbe la strada all'accordo con la Fiat. La borsa intanto ci crede, perché il titolo Fiat guadagna più del 6%. E poi abbiamo parlato anche della cronaca che ci ha portato a Milano per un caso di violenza su una donna. Sarebbe avvenuto ieri mattina alle 8 in pieno centro della città di Milano. E poi, per quanto riguarda le notizie dall'Abruzzo, il vertice del governo, in arrivo anche fondi dall'Unione Europea. Adesso il resto delle notizie. E allora cominciamo proprio andando all'Aquila, perché dopo la ripresa delle scuole, dopo la ripresa di alcune delle attività amministrative, oggi è toccato anche ad alcune attività commerciali. All'Aquila c'è Josafat Capulli, abbiamo già conosciuto a GR24 Extra Large, direttore editoriale di TV1 dell'Aquila. Buongiorno ancora. Buongiorno a te. Bentornato. Allora, riprendono alcune attività commerciali. Come? La città si risveglia? La città si risveglia. Addirittura nel campo di Murata Gigotti ha colpito se la prologo locale. È stato riaperto un ufficio del comune dove si prende modulistica per quanto riguarda l'agibilità delle case, la ripresa delle attività commerciali a nord-ovest della città, perché la parte sud-est, cioè quella di Pagani, Caun, San Gregorio, L'Aquila, eccetera, è ancora inagibile, per lo più distrutta. E quindi dal nord-ovest riprendono tutte quelle attività. Qui abbiamo una farmacia, le farmacie stanno riaprendo, negozi di ottica, gli studi medici, addirittura abbiamo un camper dove ci stanno i medici condotti che hanno fatto un'opera meravigliosa, fanno ricette, la farmacia è la sede dell'ufficio postale. Dal lunedì, martedì riapre anche la filiale della banca locale in un camper, è stato già predisposto un terreno ad hoc, quindi nel cuore del campo di Murata Gigotti. Giosafat, tutto in tendopoli, non nelle vere strutture della città, ovviamente. Tutto in tendopoli, perché per lo più le abitazioni sono inagibili, anche se i tecnici stanno lavorando molto per far riaprire quelle attività, quei locali che sono agibili. Quindi la città sostanzialmente continua a essere disabitata. Dal punto di vista delle attese della cittadinanza, si continua a dire che entro l'autunno non ci sarà più nessuno nelle tende. C'è fiducia da questo punto di vista o comincia a esserci un po' di rassegnazione? Beh, no, la rassegnazione no. Questo non è un popolo che si rassegna tanto facilmente, è un popolo abituato a vivere in condizioni difficili. Vive in un luogo bellissimo, in mezzo ai parchi, una cosa meravigliosa, però è un popolo duro, è un popolo che nei secoli ne ha viste di cose, ne ha fatte di cose. Quello che chiedono per lo più è di fare i piccoli interventi nelle case agibili, di primo livello diciamo, no? Che non hanno subito danni strutturali. Ecco, sono disposti a far da solo pur di rientrare nelle proprie abitazioni. Poi per quanto riguarda l'Aquila e il sud-est, beh, lì il discorso cambia, perché almeno 10.000 saranno gli sfollati dopo che sarà finito il censimento e le prime opere per rendere agibili o per riabilitare le case che hanno subito danni, diciamo, non strutturali. Grazie ancora a Giosafat Capulli. C'è della ricostruzione, tra l'altro parleremo tra pochissimo anche noi con le ricette date ieri dal premier Berlusconi. Prima però c'è anche un altro capitolo, perché intanto la procura del capoluogo abruzzese continua a raccogliere documentazione per accertare eventuali responsabilità dei crolli causati dal sisma, e oggi dovrebbe essere il giorno in cui dovrebbero essere interrogati alcuni dei costruttori. Il presidente della commissione Grandi Rischi e allora capo della Protezione Civile Franco Barberi ha ricordato ieri che già nel 99 la Protezione Civile aveva realizzato un dossier che elencava i palazzi a rischio in 7 regioni del centro-sud particolarmente esposte, tra cui anche l'Abruzzo. 10 anni fa già si sapeva tutto. Si sapeva ad esempio che almeno 1.000 edifici in Abruzzo sarebbero inevitabilmente crollati se si fosse verificato un sisma importante. Era tutto scritto in un dossier compilato dalla Protezione Civile, un censimento di vulnerabilità su un migliaio di edifici pubblici, in particolare 55 ospedali, 209 abitazioni, 17 istituti scolastici. Il dossier lanciava l'allarme sulla necessità di correre ai ripari e diceva che il 48% dei palazzi risultava inagibile. 10 anni dopo la regione si dichiara innocente e oggi fa sapere la mappa sarà pubblicata sul sito dell'ente. Troppo tardi forse, ma il dossier del 1999 non è l'unico allarme lanciato in questi anni. Nel 2005 c'era stato un nuovo censimento sempre della Protezione Civile. Ora la Procura dell'Aquila ha acquisito il carteggio, finora segreto, fra regione ed enti locali e ha aperto il capitolo delle responsabilità dei pubblici amministratori. Nel documento si rintracciano gli indizi per individuare la catena di responsabilità. Si specifica che gli obblighi di messa a norma degli edifici e infrastrutture destinati ai diversi usi resta, in termini generali, in carico ai singoli soggetti proprietari. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E abbiamo detto che c'è un vertice di governo oggi sul terremoto d'Abruzzo. C'è un'altra notizia che arriva dall'Aquila e riguarda gli assegni, insomma, i sussidi, perché lo Stato garantirà una indennità di disoccupazione intorno a 800 euro mensili anche per i lavoratori autonomi che operano nelle aree terremotate dell'Abruzzo. È un annuncio che è stato fatto poco fa dal ministro del welfare del lavoro, Maurizio Sacconi, che oggi è proprio all'Aquila per firmare l'accordo definitivo con l'Abruzzo per la ripartizione degli ammortizzatori sociali. L'abbiamo sentito ieri in diretta. In questi minuti all'Aquila c'era invece il premier Berlusconi, che ha lanciato una ricetta ricostruzione che coinvolga un po' tutto il paese, un po' tutta l'Italia. In sostanza è il modello dei gemellaggi dei comuni e delle regioni per ricostruire i luoghi colpiti dal sisma. Per i comuni se ne sta già occupando il sindaco di Piacenza Roberto Reggi, responsabile dell'ANCI per la protezione civile, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sindaco, il presidente del Consiglio Berlusconi chiede in sostanza aiuto a voi, ai primi cittadini. La ricostruzione in Abruzzo, dice, riparterà con i gemellaggi. Le città italiane sono pronte a rispondere? Sono pronte, lo sono state da subito, in quanto abbiamo attivato immediatamente tutto quello che abbiamo a disposizione per ripristinare le funzioni amministrative essenziali dei municipi. Ovviamente mandando anche le squadre a nostra disposizione della protezione civile comunale per la prima emergenza, ma siamo pronti anche per la ricostruzione. Ecco, da questo punto di vista ci sarà anche un esborso economico. Quale parte i comuni italiani, in che modo sono disposti, pronti a fare la loro parte? Beh, adesso non vorrei che il presidente Berlusconi voglia scaricare sui comuni la spesa della ricostruzione, questo deve essere chiaro, perché i comuni hanno già i loro problemi. Però i comuni sono pronti a mettere a disposizione le loro eccellenze, le loro capacità per adottare dei territori da ricostruire. Ovviamente sui costi poi dovremo metterci d'accordo. Avete già un'idea quindi di come dovrebbe avvenire il meccanismo? Peraltro mi sembra ci siano già state anche alcune riunioni preliminari. Sì, sì, noi abbiamo già in mente come fare. Ci sarà la possibilità di effettuare dei gemellaggi per funzioni, per esempio, decidere chi ricostruisce i municipi, per esempio, chi le scuole, chi gli impianti sportivi. Ogni regione in realtà dovrebbe adottare un'area della zona aquilana e con i comuni della propria regione individuare le funzioni che da assegnare a ciascuna amministrazione. È chiaro che sarà importante anche sfruttare le specializzazioni che ciascun territorio ha da mettere a disposizione. Ecco, ci sono degli esempi da fare in questo senso, città o zone che hanno dato già una disponibilità sulla base anche proprio di queste possibili specializzazioni, competenze? Sì, ieri per esempio il sindaco Domenici di Firenze diceva che loro sono disponibili a mettere a disposizione i propri restauratori. Loro hanno nel campo del restauro una specializzazione riconosciuta, degli istituti importanti riconosciuti in tutto il mondo, e quindi sarebbero molto contenti di poter mettere a disposizione nel campo del restauro la loro forza di eccellenza. Quindi tutta la parte artistica, almeno di alcuni territori, potrebbero farsene carico loro con i loro specialisti. È chiaro che nella parte di progettazione, nella parte di ideazione, ma sulle spese ritorno al tema di prima. Ecco, torniamo qui. Siete pronti ad offrire la mano d'opera, ma i costi è un altro capitolo. Certo, noi abbiamo già messo a disposizione la mano d'opera, ci sono già da oggi 40 squadre di specialisti comunali per la rilevazione dei danni, così come ci sono già presenti sul territorio aquilano i nostri agenti della Polizia Municipale che volontariamente vanno a presidiare queste aree per evitare fenomeni di sciacallaggio, ma i costi ovviamente della vitto e alloggio devono essere a carico del governo, non possono essere a carico dei comuni. Quindi niente scaricabarile, questo voi dell'ANCI lo dite chiaramente. Vorremmo evitarlo, visto che già abbiamo dei problemi di mancati trasferimenti. E lo sappiamo. Tra l'altro è un contenzioso aperto anche questo una beffa, col governo. Una beffa che vorremmo evitare. Quali potrebbero essere però i tempi, Sindaco, per partire con questo progetto che è ancora tutto da costituire, ma insomma le linee base ci sono già? No, no, ma noi ci stiamo già lavorando e, come ripeto, da questa mattina i nostri tecnici sono a disposizione, 40 squadre già presenti sul territorio. Sulle gemellaggi, in realtà l'incarico è stato dato alle regioni, perché il Dipartimento di Protezione Civile ha come riferimento principale le regioni. I comuni mettono intanto a disposizione le loro eccellenze e le loro capacità. Sindaco, la sua città, Piacenza, chi adotterà? Ma la mia città può adottare qualunque territorio, quello più utile. Io sono sicuro che noi nel campo dell'agroalimentare, nel campo del supporto all'università, nel settore della logistica potremmo dare un contributo straordinario, quindi, ma anche nel ciclo edile, visto che abbiamo delle imprese di eccellenza. Quindi su questi quattro campi io sono disponibile. Grazie allora per essere stato con noi il sindaco di Piacenza, responsabile dell'ANCE dei comuni per la protezione civile, Roberto Reggi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E a proposito di iniziative di solidarietà, 24 ore per l'Abruzzo, vendiamo solidarietà, è l'iniziativa promossa dalle persone che lavorano al gruppo 24 ore per dare un contributo concreto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, naturalmente alla gente colpita dal terremoto abruzzese. Sabato 18, cioè domani, le reti di vendita, i giornalisti, tutti i dipendenti del gruppo 24 ore saranno nelle principali piazze di 12 città italiane impegnati personalmente a raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma. 13:34 minuti e GR24 extra large con le notizie di oggi. Fiat Chrysler accordo e sembra sempre più vicino. La casa americana sta trattando coi sindacati. Il nuovo consiglio d'amministrazione nominato dal governo americano è dall'ingotto. La borsa ci crede. Vertice di governo oggi per le prossime mosse sul terremoto e presto arriveranno anche gli aiuti dall'Unione Europea. In arrivo ci sono 500 milioni di euro. E dopo la polemica ieri puntata riparatrice per anno zero, Santoro manda in onda le vignette di Vauro e vince la sfida dell'ascolto con il programma della De Filippi. Ancora una violenza, aggredita nei giardini di Via Palestra a Milano, una donna di 30 anni denuncia: mi hanno aggredita alle 8 di mattina e nessuno ha visto nulla, ma ora i carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo. Davano ordini dal carcere di Palermo, i carabinieri notificano gli avvisi a 5 esponenti del clan mafioso Madonia che dalle celle continuavano a comandare. Cuba e Stati Uniti davvero verso il disgelo, inizia oggi nello stato di Trinidad e Tobago il quinto vertice delle Americhe. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama incontra i colleghi di 33 paesi del continente, al centro dei colloqui proprio le aperture di Washington verso il regime di Castro. Oggi vertice di governo, ne abbiamo parlato nella prima parte di Extra Large, e sarà proprio il presidente del Consiglio Berlusconi a dover sciogliere un altro nodo, quello che riguarda il referendum elettorale, valutando la possibilità di tenere la consultazione il 21 giugno, insieme con i ballottaggi delle amministrative, oppure a rinviare addirittura di un anno l'appuntamento. La decisione è presa nella riunione dell'ufficio politico del Popolo delle Libertà, e oggi il ministro Bondi ha sottolineato che l'ipotesi del rinvio non è da escludere. Ma su cosa si deve votare? Su cosa verte il referendum? Allora sentiamolo in questa scheda. Nel palazzo e nelle sue immediate vicinanze ne parlano tutti. Ma secondo un sondaggio IPR Marketing solo il 7% degli italiani sa più o meno di cosa si tratti. In pratica, quale obiettivo ha questo benedetto referendum elettorale che piace al PD e, almeno in teoria, a una parte del PDL mentre è visto con il fumo negli occhi dalla Lega Nord e dai piccoli partiti? L'oggetto dei tre quesiti referendari è la legge elettorale per le consultazioni politiche, quella legge proporzionale con premio di maggioranza approvata nel 2005 e ribattezzata nella vulgata giornalistica come Porcellum, dopo che anche il suo principale estensore, il ministro Calderoli, l'aveva definita una porcata. Questa legge è stata molto contestata per diversi motivi. Uno è la previsione di liste bloccate, cioè senza preferenze, ma su questo il referendum non interviene. Un altro motivo di critica alla legge è il meccanismo del premio di maggioranza alle coalizioni, considerate troppo frammentarie. Qui il referendum interviene e come? Dicendo sì al primo e al secondo quesito, relativi rispettivamente a Camera e a Senato, si cancellerebbe infatti la possibilità del collegamento tra liste ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza. Il premio di maggioranza verrebbe quindi attribuito alla singola lista che ha ottenuto più voti, determinando un esito che accelererebbe la tendenza bipartitica che si è già affermata alle elezioni del 2008 e quindi, sostengono i fautori del referendum, la governabilità. D'altro canto, la rappresentanza parlamentare di partiti come la Lega, l'UDC o l'Italia dei Valori, per non parlare di Rifondazione o della destra, sarebbe a rischio o quantomeno ridimensionata. E soprattutto non ci sarebbe più spazio per condizionare il partito al governo. Il terzo quesito, infine, si scaglia contro la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni. I referendari denunciano che il candidato eletto in più circoscrizioni può decidere per quale optare, diventando così arbitro, anche dopo il voto, della scelta di chi mandare in Parlamento al suo posto. E spiegano che oggi un terzo dei parlamentari sono scelti dopo le elezioni da chi è già stato eletto e diventano parlamentari per grazia ricevuta. Con l'approvazione del quesito, il giochetto della plurielezione non sarebbe più possibile. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E abbiamo sentito, almeno in una parte, in questa scheda, quali sarebbero le conseguenze politiche per i partiti politici dall'esito del referendum. Salutiamo il professor Roberto Dalimonte. Buongiorno. Docente di sistema politico all'Università di Firenze, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Allora, noi sappiamo che più esplicitamente, prima di tutti, è stata la Lega a puntare i piedi per sostanzialmente non favorire il buon fine di questo referendum, boicottarlo dal punto di vista del quorum. Perché? Quali sono le conseguenze politiche che la Lega non desidera? Sono quelle che avete spiegato nella vostra scheda, cioè che il fatto che col sistema attuale la Lega può presentarsi alle elezioni con il suo simbolo, con la sua lista di candidati e quindi con la sua visibilità, e è collegata però alla PDL e quindi partecipare alla corsa per il premio di maggioranza e quindi eventualmente entrare al governo. Se invece vincessero il sì al referendum, la Lega dovrebbe scegliere tra entrare in un listone unico della destra e quindi in un listone dove non avrebbe più una sua visibilità specifica e una sua lista di candidati, oppure restare fuori, concorrere per l'assegnazione dei premi dei seggi proporzionali, ma non partecipare alla corsa per i premi di maggioranza e quindi entrare al governo. Quindi è un dilemma molto. E quindi con un eventuale alleato peraltro molto forte invece. Gli altri partiti, per le altre forze politiche, che scenario ci sarebbe se passassero questi referendum? Beh, lo scenario per quelle forze politiche, diciamo, più radicali, che non hanno interesse a partecipare al governo e quindi non hanno interesse ad allearsi e concorrere al premio di alla conquista del premio di maggioranza, la differenza principale riguarda la soglia di sbarramento, perché questa è una cosa appunto che va detta, cioè perché con l'attuale legge elettorale, se si alleano, c'è uno sconto sulla soglia di sbarramento che invece di essere il 4% alla Camera diventa il 2%, se invece stanno fuori dalla coalizione diventa il 4% e quindi più alta. Questa è la sola grande differenza per i partiti più, diciamo, radicali, che non hanno interesse a partecipare al governo. Per partiti invece di centro, o partiti come l'UDC o l'Italia dei Valori, si pone lo stesso dilemma che si pone per la Lega. Professore, lei è un esperto di sistemi elettorali anche, e noi sappiamo che questo referendum è nato inizialmente con un certo consenso anche bipartisan sul trasversale rispetto alle forze politiche. Adesso si frena un po' di più. Il suo punto di vista, le conseguenze, insomma, si dice che già il sistema italiano adesso è sostanzialmente maggioritario, non c'è bisogno di andare verso il bipartitismo. Il suo punto di vista? A me personalmente sembra che l'esito favorevole il referendum porterebbe ad una forzatura, perché a mio avviso il paese non è pronto per un sistema bipartitico. Evidentemente, insomma, c'è stato un problema con la linea, però cioè, il professor Dalimonte ci aveva già il concetto era chiaro, sostanzialmente, insomma, dato la sua analisi della allora situazione. Anche se non è più con noi, salutiamo il professor Roberto Dalimonte, docente di sistema politico all'Università di Firenze, e salutiamo invece Stefano Pistolini, che ogni giorno conduce su Radio 24 Jefferson 2. Buongiorno. Il tema ovviamente è un altro, una svolta che a questo punto sembra davvero vicina, perché si apre oggi nello stato di Trinidad e Tobago, come abbiamo detto più volte nei nostri titoli, il quinto vertice delle Americhe con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che porrà sul tavolo la questione dei rapporti con Cuba. Stefano, davvero siamo ormai alla svolta? Nelle ultime ore in realtà c'è stato un certo raffreddamento di atteggiamento da parte degli americani, che del resto per bocca di parecchi membri dello staff di Obama nelle ultime settimane hanno detto comunque molto più di quanto sia stato detto negli ultimi 15 anni dall'amministrazione americana verso Cuba. I segnali sono stati recepiti, le reazioni sono state controverse, ma tutto è in movimento. Il discorso centrale è che Obama va in un posto dove non lo aspettano oggi moltissimi amici. I rapporti dell'amministrazione americana con tanti governi del Sud America sono diventati estremamente problematici, fatta salva la Colombia di Uribe, insomma, ma sappiamo benissimo come Chavez o Morales abbiano a più riprese parlato contro l'America del XXI secolo. Qui quindi fondamentalmente Cuba è in un certo senso un passaggio secondario, una stazione a cui si arriverà dopo un po' di cammino. Il primo tratto del cammino importante che Obama deve avviare in questa sede, e in un certo senso l'ha già fatto ieri nel contatto, mi sembra molto fruttuoso, con il presidente messicano Calderon, è quella di riaprire una sincera, credibile empatia, insomma, fra il colosso nordamericano e le problematiche nazioni sudamericane. Si riparte da qua, due mani che lavorano insieme, è stata l'espressione che ha usato ieri nei confronti del grande problema del narcotraffico. Queste due mani devono diventare molte di più, addirittura 33, lo aspettano, non so quante hanno voglia di stringere la sua prima del vertice, vedremo cosa succederà dopo. Grazie, allora Stefano Pistolini, e l'appuntamento è oggi alle 16 con il programma Jefferson 2. Grazie Stefano. E adesso un consiglio invece per il nostro weekend, che comincia tra poco, insomma tra pochissimo, per qualcuno magari è già iniziato. Allora, oggi a Faenza, si apre la seconda edizione del Festival dell'Arte Contemporanea, al mondo visto attraverso le biennali, con oltre 100 protagonisti e 50 incontri per raccontare e comprendere l'arte contemporanea. È in programma fino a domenica, e Adriana Fracchi ha intervistato il direttore del festival, Pierluigi Sacco. Il tema di questa seconda edizione sarà le biennali. La biennalizzazione dell'arte è un fenomeno che sta assumendo effettivamente una dimensione globale, perché abbiamo ormai un affastellamento tale di iniziative di questo genere che praticamente non passa mese che non si apra una biennale da qualche parte del mondo. Ci è sembrato giusto dedicare allora la seconda edizione del festival a riflettere su questo tema, perché è un tema che collega l'arte ad una serie di questioni: lo sviluppo locale, l'identità dei territori e delle città, il rapporto dell'arte con un pubblico sempre più vasto e sempre più eterogeneo, e questo tema verrà affrontato, come sempre accade nel festival, con i principali protagonisti dell'industria internazionale, senza dimenticare naturalmente la realtà italiana. Ma lei di questa proliferazione di biennali cosa ne pensa? Io penso che sta diventando una strategia, se vogliamo, di marketing territoriale, di affermazione dell'identità. Le biennali rappresentano oggi uno dei modi di affermare l'identità di un territorio, e quindi di fatto uno strumento sofisticato di marketing territoriale. Il problema è che le biennali hanno bisogno di una ragione che non sia semplicemente la promozione di un territorio, ma ha bisogno di un suo radicamento effettivo, e spesso di trovare un proprio modello originale che abbia una sua necessità nel panorama dell'offerta internazionale. Questo non sempre accade, e quindi per questo motivo è vero che tante biennali nascono, però molte hanno vita breve, perché effettivamente non riescono a trovare una giusta dimensione. Invece di essere una struttura permanente, sono delle attività periodiche che vengono svolte, ma che di fatto hanno la stessa funzione: affermare attraverso la cultura l'identità di un luogo. 13, 47 minuti, 45 secondi in questo istante, GR24, extra large. Fiat Chrysler, accordo sempre più vicino, ne abbiamo parlato nella prima parte del programma. La casa americana sta trattando con i sindacati il che spianerebbe la via al matrimonio. Ci crede la borsa, il titolo Fiat è in rialzo del 6%. E poi il vertice di governo oggi per il terremoto, presto in arrivo gli aiuti anche dell'Unione Europea, si parla di 500 milioni di euro. La puntata, abbiamo parlato anche di questo, riparatrice di anno zero, ha vinto la sfida dell'ascolto con il programma di Canale 5 di Maria De Filippi. Poi due casi di cronaca. A Milano, un caso di violenza su una donna in un parco al centro della città. La polizia però sta indagando per capire davvero di che cosa si tratta. E poi gli avvisi notificati dai carabinieri a 5 boss del clan Madonia in carcere a Palermo: dalle loro celle davano ordini, continuavano a comandare. E noi torniamo a guardare, come avevamo anticipato, lo scenario internazionale, perché c'è un'iniziativa per il disarmo nucleare che vede, come dicevamo, in prima fila proprio l'Italia e il ministro degli esteri Franco Frattini. Ce la racconta Andrea Viali, buongiorno. Sì Anna, si è conclusa poco fa a Roma la conferenza sul disarmo nucleare Overcoming Nuclear Dangers che si è tenuta al Ministero degli Esteri alla Farnesina. Alla due giorni, che rientra nelle iniziative legate alla presidenza italiana del G8, hanno partecipato fra gli altri l'ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov, l'ex segretario di Stato americano George Shultz e l'ex segretario alla difesa di Bill Clinton, William Perry. Per l'Italia, come dicevi, era presente il ministro degli esteri Frattini. Nel corso dei lavori in questi due giorni si è parlato soprattutto ovviamente della necessità di ridurre il ruolo degli arsenali nucleari, ma anche della necessità di conciliare il disarmo con la crescente domanda di energia nucleare, quel punto su cui si è soffermato soprattutto il ministro Frattini. Nella conferenza è emersa anche poi la consapevolezza che per poter arrivare ad un mondo senza armi atomiche i passi da compiere sono davvero ancora molti. Il prossimo appuntamento cruciale sarà nel 2010, la conferenza del riesame del trattato di non proliferazione nucleare, trattato dal quale restano fuori ancora importanti stati nucleari come Israele, India e Pakistan, ma l'attenzione è andata anche ad altre nazioni come l'Iran e la Corea del Nord, che nonostante i contrasti con la comunità internazionale stanno andando avanti con i loro programmi nucleari. Da segnalare infine che Stati Uniti e Russia, in vista del rinnovo degli accordi START, hanno programmato un incontro tecnico che si terrà sempre qui a Roma a fine aprile. Per il momento dalla Farnesina è tutto. E grazie ad Andrea Viali, restiamo alle notizie dall'estero. La nostra finestra sul mondo arabo oggi ci porta di nuovo, come poco fa, a parlare di America. La prima donna musulmana col velo che entra nella Casa Bianca con l'incarico di consigliera del presidente americano Barack Obama. La TV satellitare Al-Arabiya presenta così Dalia Mugahed, una ricercatrice musulmana di origine egiziana, che è stata scelta a far parte di un consiglio consultivo del presidente USA per affari religiosi. Negli ultimi anni i musulmani sono stati visti come fonte di problemi, ma ora vogliamo dire che nell'Islam ci sono idee e capacità per contribuire a dare soluzioni, dice la donna che ha il compito di informare Obama di come la pensano i musulmani. Chissà se Mugahid, che in arabo vuol dire combattente, avrà informato il presidente dell'ennesima bimba yemenita che ieri, all'età di 13 anni, si è rifugiata in un orfanotrofio per sfuggire a un marito quarantenne che l'aveva presa e sposa all'età di 9 anni. Adifa Tahali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Tra i nostri consigli per il fine settimana, non solo i consigli d'arte, c'è anche il gastronauta Davide Paolini. Per una straordinaria cena di venerdì sera io vi consiglio le langhe, vi consiglio ad Alba, un ristorante che si chiama Piazza Duomo e lo chef è Enrico Crippa. Una mano leggerissima che in questo periodo presenta dei piatti di stagione, a cominciare dagli asparagi violetti dal Benga in riduzione acqua e olio grattugiati con una julienne di pere e un'aggiunta di tartufo nero, e poi ancora scampo con salsa di zucca e arachidi, e poi ancora il merluzzo con rape e mozzarella, l'agnello sambucano però cotto con camomilla e aroma aggiunto una crema di capra, e poi ancora gli gnocchi di ricotta al seiras. Per finire un sorbetto al cioccolato e salsa verde. Quindi una grandissima cena stagionale per chi ama appunto i prodotti del momento. Buona cena dal gastronauta. E con i consigli del gastronauta termina qua questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia alla parte tecnica Peter Bescapè. Io vi ricordo ancora le nostre finestre speciali dedicate al terremoto in Abruzzo. Anche oggi proseguiamo alle 18 e alle 22 con tutte le notizie e gli approfondimenti. Vi ricordo anche l'iniziativa del gruppo 24 Ore, di cui fa parte anche Radio 24. 24 Ore per l'Abruzzo, vendiamo solidarietà, l'iniziativa